Ciao a tutti da DJ Pallaaaaai, ragazzi della persiana, sono volati dal balcone. Se ne escono vivi, torneranno settimana prossima. Concludo dicendoci che Amanda Knox è una grandissima puttana. Ciao a tutti da DJ Pallaaaaai.